Parla Ipazia. Parlavo, narravo, con la mia voce senza suono, con il mio essere donna da sempre e per sempre. Raccontavo della scienza, della lotta, non solo storica, ma essenzialmente spirituale, della fine di un'epoca, fine alla quale io mi opponevo. Dea e creatrice dell'universo, primordiale origine dei secoli. Nel tuo volto sono racchiusi tutti gli dèi e le dee. Tu sei signora di ogni terra, regina dei fiumi, dei venti, del mare, della volta celeste, del mondo infero, sei regina della navigazione, ordinatrice delle leggi per gli uomini e per le donne, dispensatrice delle lettere sacre ed emotiche, così che tutto ciò che è nel mondo può essere scritto con gli stessi segni. Tu sei colei che ha tracciato i sentieri delle stelle, i cerchi del sole e della luna, una e indivisibile, sei conosciuta e adorata dai popoli sotto differenti forme e nomi. Ma solo il popolo degli Etiopi e le genti egiziane ti chiamano con il tuo vero nome, Regina Iside. La mia voce, tranquilla ma decisa, colmava la sala, incidendo sulla trama dello spazio e del tempo, grande polo di attrazione o centro di gravità. E io parlavo delle forze che legano la Terra e il Sole, i pianeti e le stelle, e che sono diverse a seconda delle distanze che intercorrono tra i corpi e delle densità di questi. Densa e forte, io stessa raccontavo di come un qualsiasi corpo curva lo spazio tridimensionale, tanto più fortemente quanto più elevata è la massa del corpo. E questa distorsione dello spazio è la forza di gravità. Infatti la Terra viaggia in orbita lungo la distorsione dello spazio creata dal Sole. La Luna gira intorno alla Terra lungo la curvatura dello spazio generata dalla Terra. E uomini e donne e cose sono ben attaccate alla Terra per lo stesso motivo. Tutto ciò avviene perché ogni corpo, anche l'essere umano, incurva lo spazio e quindi origina una forza gravitazionale. E poiché lo spazio non è separato dal tempo, anche quest'ultimo è influenzato dalla pesantezza dei corpi. Infatti il tempo scorre più lentamente per un ipotetico osservatore in prossimità del Sole rispetto ad uno sulla Terra, e questo a causa della diversità della massa dei due corpi celesti. Questi effetti nell'ambiente in cui vive l'essere umano sono di piccola entità e quindi trascurabili, ma nello spazio, per le enormi masse dei pianeti, delle stelle e delle galassie, hanno un'importanza rilevante. Più grande è la massa o densità di un oggetto, maggiore è la curvatura spazio-temporale. E se una stella si contrae, ovvero la materia si concentra in dimensioni sempre più ristrette, la curvatura dello spazio e del tempo aumenta, e quindi la gravità, finché tale corpo diviene talmente denso che nulla può sfuggire da esso, nemmeno la luce. E il tempo all'interno di questa trasformazione rallenta rispetto a un osservatore esterno fino a fermarsi, mentre per la stella in contrazione il tempo continua a scorrere normalmente. Più osservatori, infatti, misurano intervalli di tempo diversi, differenze che risultano significative quando le dimensioni dei fenomeni osservati sono considerevoli. Gravità voleva dire essere un centro di trasformazione, di nuova vita, che in qualche modo doveva modificare il corso degli opposti avvenimenti, che forze implacabili facevano convergere verso l'ultimo, forse, baluardo del sapere, ossia modificare lo spazio e lo scorrere del tempo, per evitare quello che sembrava ormai inevitabile, la distruzione e la morte. E non soltanto per salvare la mia vita, o quella dei miei discepoli, in fondo non era così importante in un mondo dove la vita era la cosa più diffusa e di così poco valore, bensì perché io ero consapevole che una interruzione violenta, la repressione di quel centro di coscienza che era la biblioteca di Alessandria, avrebbe ritardato di molti secoli o forse annullato lo sviluppo intellettuale, la crescita e la trasformazione di un evento quale è l'essere umano. Evento cosmico che non necessariamente deve andare a buon fine, Esso potrebbe dissolversi in un universo indifferente che potrebbe riproporre l'esperimento in un altro spazio o dimensione, ma forte è la responsabilità dell'essere umano. Ella, egli, non interrompendo quello che in fondo è destinata a fare, deve rispondere anche nel seguire le indicazioni che gli le vengono date in precisi momenti della sua storia. Deve trasformare se stesso, se stessa e il cosmo, sensibilità, sentimento, ragione, al fine di rendere cosciente quello che ancora non lo è. E trasformare vuol dire modificare se stessa e gli altri fino all'ultima persona, anche quelli che combattono il cambiamento e che sono forti e inesorabili. Questa è la trazione, il tessuto del tempo e dello spazio che si curva sotto l'azione della conoscenza, in modo da far tendere verso il centro di gravità tutto quanto, affinché il tempo si fermi, la luce si oscuri e nasca un nuovo universo.